Mr. Kilowatt. Alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Continuiamo questa sera con gli incontri con i protagonisti del mondo italiano dell'energia che si sono avvicendati all'Italian Energy Summit qui al Sole 24 ore nei giorni scorsi. Questa sera è la volta di Costantino Lato, direttore del centro studi del GSE, che ho incontrato qualche giorno fa e a cui ho chiesto di aiutarci a fare il punto sull'attuale mix delle fonti rinnovabili esistente in Italia e anche sui suoi sviluppi passati e futuri. Sentiamo com'è andata. Allora, intanto proviamo a descrivere com'è composta in questo momento la torta, diciamo così, delle rinnovabili italiane. In questo momento, diciamo, noi abbiamo prodotto l'anno scorso circa 77 terawattore e circa il 65% è idroelettrico e circa il 12% spettano all'eolico e alle biomasse, seguito dallo storico geotermico, e si sta aprendo la strada anche al fotovoltaico, che nei prossimi anni avrà un ruolo molto importante, in quanto si prevede che a fine di quest'anno ci saranno circa 12.000 megawatt di fotovoltaico e quindi ci sarà una produzione nei prossimi anni che certamente si attesterà al di sopra dei 20 terawattora. E quindi è questa una grande, voglio dire, novità nel panorama della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Intanto possiamo, come dire, per inciso, dire che questi 12 gigawatt di potenza installata fotovoltaica ci segnalano che il mercato, nonostante la riduzione degli incentivi, almeno per il momento va bene. Certamente, voglio dire, addirittura si può dire che la crescita è, per così dire, anche eccessiva. Probabilmente poteva essere utilizzato, diciamo, questa stessa quantità di denaro per poterli costruire in un tempo più lungo, permettendo anche una migliore evoluzione tecnologica di questa tecnologia. Fra l'altro, l'informazione mediatica porta a credere che la politica, voglio dire, delle fonti energetiche sia solo quella del fotovoltaico, ma in realtà noi dobbiamo variarla e soprattutto, come diremo anche dopo, andare a toccare anche il settore dell'efficienza energetica, che è il termico, che è ugualmente importante, se non più importante, per raggiungere i nostri obiettivi. Sì, per definizione usare le rinnovabili vuol dire usare la fonte disponibile in quel punto, in quel momento, nel modo migliore possibile. Quindi concentrarsi solo in una direzione è per definizione sbagliato, no? È perfetto, perché è questo che dice il nuovo piano di azioni per le energie rinnovabili, non ce lo dobbiamo dimenticare. In realtà quello che noi dobbiamo fare è diminuire la nostra bolletta energetica, quindi dobbiamo acquistare meno energia primaria mettendo all'interno del nostro sistema energie rinnovabili nelle sue varie forme, e possiamo risparmiare molto più energia con l'efficienza energetica. Ecco che la politica energetica, noi siamo abituati a pensare all'energia rinnovabile solo nel settore elettrico. È chiaro che ci vorrà del tempo, ma dovremmo cominciare tutti a capire che le energie rinnovabili si declinano in vari modi, e quello del calore e dei trasporti sono ambiti molto importanti, perché sono quelli che prendono circa il 70% dell'energia che consumiamo. Ecco, dunque, torniamo alla torta di cui parlavamo inizialmente. Com'è cambiata negli ultimi 10 anni? Abbiamo detto lo stato della situazione? Negli ultimi, diciamo, 10 anni è aumentata del 50%, che sono stati, cioè, un più 50%. Vi ricordo che, diciamo, che nell'anno 2000 noi producevamo circa 50 terawattora, adesso ne produciamo 75 di terawattora sostanzialmente. Ma questa evoluzione si è avuta grazie, diciamo, ai generosi incentivi che sono stati dati soprattutto negli ultimi anni. È importante anche sottolineare che, se per farlo partire, diciamo, era una cosa molto importante, nel futuro dobbiamo stare attenti a ridurre progressivamente, come dice la stessa nuovo decreto legge sulle incentivazioni, in modo da renderli anche sostenibili, non solo, diciamo, ambientalmente, ma soprattutto economicamente. Ecco, allora adesso proviamo invece a spiegare una cosa leggermente più tecnica, ma che è importante capire. Diciamo, lo facciamo a partire da una domanda, che è: quanto ha impattato la produzione di energia elettrica da rinnovabili sul fabbisogno primario del paese, cioè il totale di energia che noi compriamo o comunque utilizziamo per produrre energia elettrica, ma anche per farci andare le automobili, scaldare le case, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che l'impatto soltanto per il settore elettrico è passato, diciamo, da un circa 17% per il settore elettrico nell'anno 2000 ed è arrivato al 23% nell'anno 2010, con un più 6%. Questo è perfettamente coerente, uguale, il numero è uguale a quello che è successo in Europa. E fra l'altro in questo stesso periodo è aumentato anche, diciamo, l'utilizzo, diciamo, del gas metano per produrre energia elettrica. Più in generale possiamo dire che a livello di consumo di energia primaria, il fatto di produrre l'energia elettrica con le energie rinnovabili ovviamente ha un effetto fondamentale, quello di non farci più acquistare l'energia primaria, ovvero il carbone o il petrolio o il gas, e quindi diminuisce voglio dire la bolletta sostanzialmente a noi, ma in effetti diminuisce anche i consumi dell'Italia, perché evidentemente i consumi di energie rinnovabili sono gratuiti. Sono gratuiti, e poi dobbiamo ricordare che siccome appunto produciamo energia elettrica a partire da fonti fossili, alla fine del processo, produzione e trasporto, circa un terzo di energia arriva all'utente finale, gli altri due terzi sono persi sostanzialmente, e quindi questo poi voglio dire denota anche la convenienza di utilizzare le energie rinnovabili, soprattutto le biomasse, di più nel settore termico che tanto nel settore elettrico, dove sono veramente non molto efficienti. Ci fermiamo qui, grazie a Costantino Lato. Io ricordo a tutti voi, prima di lasciarci, che le puntate di Mr. Kilowatt si possono ascoltare in podcast dalla pagina del sito di Radio 24 e che potete scriverci a mrkilowatt@radio24.it. Grazie a tutti, buona serata, appuntamento a domani.